YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Bella terza ora del sabato del villaggio, anche questo sabato si trasforma perché in Radio YouTube. Dici anche fai con le braccia? Non lo so. Fai sempre anche questo. Ma tutti da 4 si anni. Si vede alla radio, e si 75 vede alla radio. Non mi ricordo più niente. 45esima della quarta stagione. Mamma mia, della quarta stagione. House of Cards è arrivata la quinta, mi pare. Sì, noi siamo alla quarta. Noi quasi. Chi fa chi? Non lo sappiamo, lasciamo ai telespettatori e ai radioascoltatori di scegliere. Non lo so, io sicuramente la bionda perché si vede, sì, no, e io sicuramente il cattivo. Sempre certo, per gli opposti. Perché la bionda invece è proprio buona. Allora, et Marta Cagnola, et Di Bellasio, yes. Cancelletto RadioTube. Allora, e oppure cancelletto ISDV perché sennò ti offendi. No, non è vero. Anche parlare di... Non è vero, no, sono contenta che tu dell'introduzione di RadioTube, quelle due ore del di riscaldamento. Sì. Quelle due ore per creare l'atmosfera della terza. Sì. Fermiamoci al riscaldamento e basta. No, basta. Allora, ti ricordi un po' di tempo fa che io mi sono dovuto collegare da... No, forse sì, non mi ricordo se mi ero collegato. Comunque ero andato a Trieste. Sì. Perché a Trieste succedeva una cosa molto divertente. Noi parliamo spesso del linguaggio in rete, molti danno la colpa alla rete, io invece dico che la colpa è nostra, per citare Gaber, ma insomma, il problema è che in rete c'è un linguaggio un po' diverso da quello che c'è nella realtà quotidiana. Quindi a Trieste era stato organizzato un bellissimo convegno che si chiamava, con un titolo stupendo, Parole o underscore, quello che è, stili. Quindi c'è gioco di parole, no? Parole o stili, cioè parole antipatiche, la rete che le produce o le produrrebbe, oppure parole o stili. Mi piace moltissimo. Allora, sono quelle cose che solo i creativi possono... No, l'hai detto con... tra l'altro mettendo la mano, questa volta hai messo la mano con il pennarello. Siccome io gesticolo tantissimo, lo so, solo che alla radio non si vede, non stare ad ascoltarlo agli ascoltatori. Allora, a raccontarlo agli ascoltatori. Allora Daniele, sì. C'è un nuovo capitolo, una nuova iniziativa importante di Parole Ostili. Non succede? Si è fermato. No, io non sai che io sono spesso impreparato sulla nostra scaletta, quindi per non raccontartelo Ok, abbiamo pensato di chiamare al telefono, non so da dove, diciamo la curatrice, diciamo la mamma di Parole Ostili. Oh, che meraviglia, mi piace la mamma. Abbiamo al telefono una comunicatrice, Wow Academy e il suo mondo, Rosy Russo, ciao! Ciao a tutti. Ciao Rosy, allora raccontaci qual è la nuova iniziativa, il nuovo step, la nuova pagina che apre Parole Ostili. Guarda, la nuova pagina accadrà il 15 maggio, sarà un evento sarà un evento rivolto agli studenti delle scuole, in particolar modo agli studenti delle scuole superiori e agli studenti però anche delle scuole medie. Quindi sarà la presentazione del nostro manifesto, quel manifesto che appunto è stato raccontato e presentato da Gianni Morandi anche ancora a febbraio, frutto di un lavoro di tantissime persone. Ecco, questa volta abbiamo deciso di raccontarlo e di presentarlo ai ragazzi in maniera però molto più informale, attraverso, come dire, il racconto di alcuni personaggi vicini ai giovani. Avremo ospiti youtuber, avremo i calciatori, avremo cantanti, ecco, comunque persone abituate a parlare con i ragazzi, e saranno loro stessi a raccontare i 10 principi. Lo faremo da più sedi anche in Italia. Stiamo dando la possibilità in realtà a tutte le scuole d'Italia di partecipare, perché potranno collegarsi in streaming all'evento dalle 10 del mattino, che sia nella loro lavagna, che sia nella loro classe attraverso la LIM. Basta una connessione wifi e ci sarà un collegamento, ecco, di tantissimi ragazzi. Ecco, allora diciamo intanto una cosa, che all'evento di Trieste è stato presentato e in rete è stato votato, poi si è votato un po' anche lì, insomma, un manifesto che ha 10 principi, no? Certo. Quindi 10 regole, come possiamo definirle, di comportamento, però diciamo liberamente nate dalla discussione, prima in rete e poi a Trieste. Certo. questo. Guarda, io amo pensare che questi sono degli impegni personali che le persone si possono prendere, perché proprio perché non vogliamo né bacchettare nessuno né dire come è giusto stare in rete. Il manifesto è scritto in prima persona, per cui chi aderisce decide, se non altro, di sposare un po' i pensieri che sono nati, come vi dicevo prima, dalla mano di più di 100 persone, perché a scriverlo sono state veramente tanti contributi, giornalisti, youtuber, persone della rete, comunicatori, politici stessi, che hanno dato il loro contributo. Poi ne abbiamo fatto una sintesi, abbiamo fatto votare la rete e sono nati questi 10 punti, 10 principi. Dunque, noi abbiamo raccontato il fatto che questa iniziativa è un po' nata, diciamo, dal basso. Credo che all'inizio praticamente da te, da qualche tuo collaboratore. No, però poi, a parte aver raggiunto numeri consistenti nell'evento di Trieste, è diventata una cosa anche nazionale. C'era il presidente Boldrini, la presidente Boldrini all'evento di Trieste, e poi, se non ho capito male, questa iniziativa Condivido, che ha come luogo naturale la scuola, il mondo della scuola, sebbene collegato in rete, in qualche modo ha avuto anche cioè anche il ministero ha detto alle scuole, ha suggerito alle scuole che possono collegarsi, giusto? Assolutamente sì, guarda, io come dire, probabilmente perché ci credo tanto e perché comunque ormai la viralità di questo manifesto è andata oltre le nostre aspettative, onestamente, cioè, probabilmente non ci saremmo aspettati questa condivisione massiccia. Ne abbiamo avuto decine di migliaia di condivisioni del manifesto sui social in maniera del tutto spontanea, ecco. Allora un giorno ho detto, vabbè, ma io vado a presentarlo alla ministra Fedeli, perché no? Perché se certo, l'obiettivo è quello di portarlo nelle scuole. Lei è stata davvero molto gentile, mi ha ascoltato, lo conosceva già, ed tanto è vero che gli ha detto, va bene, guarda, io il 15 maggio ci sarò, assolutamente, infatti c'è anche la ministra, ma non solo, vogliamo contribuire alla diffusione, insomma, dell'iniziativa, tanto è vero che l'altra settimana è partita una circolare per tutte le scuole, per cui è stato mandato non solo l'invito al collegamento, ma è stato mandato un kit per tutti gli insegnanti per prepararsi all'iniziativa e per introdurre un po' meglio i ragazzi all'argomento. Insomma. Quindi la base sarà a Milano, se non ho capito male, giusto? La base sarà a Milano, esattamente. Lì ci però saranno poi circa altre città, Matera, Cagliari, se non ho capito male, altre città si collegheranno via... Matera, Cagliari e Trieste sono le tre città satellite. Praticamente 10 principi, 7 verranno presentati a Milano, un principio verrà presentato a Trieste, un principio verrà presentato a Matera e uno verrà presentato a Cagliari. Bello, peraltro bello, con bello, le voci che i ragazzi riconoscono e riconoscono come vicine, è una cosa molto importante. Io vorrei ricordare ancora il sito paroleostili.com, perché se c'è ancora qualche scuola che volesse aderire, c'è il link, c'è proprio sul sito. Grazie a Rosy Russo, mamma di Parole Ostili, che è il quinto figlio. Complimenti, Rosy. Grazie, alla prossima occasione. Buon lavoro. Ciao. Complimenti a voi. Grazie. Grazie. Ciao. Che bello i ragazzi che cominciano a capire, perché adesso magari per gli adulti, non dico che sia troppo tardi, ma è importante. Perché mi guardi? Perché siamo come anziani fosse... noi. No, ma no, intendevo troppo dire. Troppo tardi, però non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, però è giusto che i ragazzi lo capiscano subito, anche perché questi tempi di bullismo. Ah, tra poco ne parliamo, facciamo una brevissima pausa, perché parliamo anche... Sì, è tutta una sorpresa questa puntata per Daniele. Sì. Parleremo anche di bullismo. Ho visto 13. Hai visto 13? Sì, ecco, visto. Perfetto, allora... Traffico e poi ne parliamo. Traffico. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Radio Tube. E Daniele, prima della pausa mi dicevi che hai guardato 13, questa serie di TV, poi insomma su Netflix, che quindi si può guardare su tanti mezzi,

degli strumenti, dei device, cioè questi occhiali che loro vendono, attraverso i quali si possono fare degli snap e quindi girare dei video senza più nemmeno usare il cellulare, quindi qualcuno ti sta guardando, in realtà sta girando un video no, allora finisce su Snapchat. Mi hanno spiegato qual è il segreto, però me l'ha spiegato l'amica Daniela. Allora uno snap, perché così ci metti tutti i filtrini un po' da stupida, poi te lo salvi e lo condividi con Instagram Stories. Ma dai! Sì, perché Snapchat ha i filtrini più carini. C'è l'unicorno, la lingua con l'arcobaleno, la faccina del cagnolino, però, i fiorini in testa. E sono concorrenti, invece vengono usati in parallelo. Ma non lo diciamo in giro. Ah, non lo diciamo. Luca, ti faccio una domanda da 10 milioni di dollari. Ma Zuckerberg a parte, cioè qualcuno ci ha fatto i soldi? Perché, insomma... Come? No, nel senso che, allora, Twitter non si sa mai come sta. Ok, Medium sta cercando il business model. Appunto, cioè Zuckerberg a parte, sono ancora YouTube mi pare che stia messa YouTube, bene. Vabbè, diciamo che YouTube, LinkedIn, Google... LinkedIn sta messa bene. Quindi, non so. Tu cosa dici, Luca? Forse siamo abituati a pensare di fare i soldi in un modo, insomma... diverso, perché poi in realtà queste aziende sono ampiamente finanziate dalla borsa, dagli investitori, quindi di fatto non gli mancano i soldi. Medium è proprio un esempio di questo. Medium non ha mai fatto nessun tipo di profitto, di nulla, ma nonostante questo è un progetto che continua ad andare avanti cambiando continuamente anche l'obiettivo, persino questo, quindi Twitter una cosa simile, Facebook sta iniziando a fare utili con la pubblicità, l'advertising. Google li fa da tempo, ma in generale c'è molto finanziamento, capitale di rischio, borsa, e con questo si pagano anche stipendi e tante altre cose, quindi diciamo che cambia anche un po' il modo di fare business. Vero, verissimo. C'è il futuro, Cioè, il bello della finanza futuro, è anche quello, c'è il futuro. Di quanto futuro stiamo parlando in questa puntata di RadioTube? Mi sento quasi futurologa. Sì, un pronipote. Le ricordi i pronipoti, quei cartoni animati Jetsons? No, erano bellissimi. Vabbè, niente, ho fatto subito l'anziana. Grazie a Luca Lagna, chiocciola Ezekiel con la K, per essere stato con noi. Puoi seguirlo su Twitter, è sempre una miniera di informazioni preziosissime. Ve lo consigliamo. Grazie, ciao. Luca, grazie mille, buona serata. Grazie, ciao. Allora, una pausetta. Poi ve l'ho detto, io da grande voglio fare l'influencer. E detto questo, direi traffico. Sì, tra poco scopriamo come si può fare. Lo sei. YouTube. Sai cosa ti dico, Daniele? Come guarda, passa dimmelo. Il tempo quando era tanto che non lo dicevo, sì. Quando ci si diverte. Questa puntata per me è stata divertentissima perché abbiamo diversa, un sacco di spunti. Abbiamo parlato delle professioni della rete, degli strumenti della rete, dei nuovi social, le cose che dobbiamo seguire, le cose che dobbiamo imparare, perché delle nuove creatività. Perché però, è anche difficile definirle alcune di queste creatività. Adesso però, siamo al dunque, cioè quello siamo che al dunque, tu quello finalmente che io voglio vuoi fare da grande. Io da grande. Ma guarda che in piccola parte, secondo me lo sei già in piccola. Anzi, vabbè, poche decine di persone. Ma io voglio diventare una milioni, di quelle famose. Certo. Voglio diventare un influencer. Sì, è la professione e la figura creativa di cui si parla di più. Allora, ti ricordi quando eravamo ragazzini che c'era quella pubblicità che ieri faceva vuole fare la modella, che la sorella che non mangiava a guarda cena? Che quando c'era Carosello io mica guardavo la pubblicità, Non era Carosello, cattivo. Abbiamo pochi mesi pochi di differenza. No, non me la ricordo. In quei mesi hanno mandato questa pubblicità. C'era io non una bambina me la ricordo. Che diceva che la sorella maggiore non mangiava, diceva perché vuole fare la modella. E oggi direbbero? Vuole fare l'influencer. Ecco, allora, ma che cos'è l'influencer? Mamma, io posso... tu che vuoi sapere chi è un influencer? Allora, che cosa sono gli influencer? Che cosa fanno? Come lo si diventa? Perché milioni di followers li seguono su Instagram e su tutti gli altri social trasformandoli in star? A dare queste risposte è una trasmissione che va in onda da sabato 6 maggio su Real Time, canale 31, alle 13:20, che si intitola The Influencer, hashtag Life on Web. I privilegi di fare questo lavoro sono tantissimi, indubbi. Poter avere modo di andare alle sfilate, per esempio. Il fatto di avere la possibilità di poter chiedere in prestito un sacco di vestiti per eventi, o anche solo se ho voglia un po' da donna di togliermi qualche sfizio. E anche la possibilità di viaggiare tantissimo, di vedere i posti più belli del mondo, gli hotel più belli del mondo. Per dire le cose belle che uno non sarebbe mai sognato. L'altra volta il mio marchio preferito che mi dice: ma per caso vorresti scegliere un look per la sfilata? Io dico: ma come per caso? Cioè, amerei, cioè. Quindi mi sento molto fortunata in questo momento. Noi siamo persone assolutamente normali che fanno vite straordinarie. Allora, finalmente la TV si è accorta del fenomeno degli influencer. Sì. Cioè, andiamo dietro le quinte, capiamo come lavorano, come si diventa grande influencer grazie a tre protagonisti. Allora, cioè, bastano i loro nomi perché hanno... Allora, una 440.000 follower, l'altra 580.000 follower, quell'altra arriva a 200.000 follower. No, guarda, non ti dico neanche quanti like su Instagram e su Facebook, tantissimi. Se li sommiamo tutti e tre facciamo proprio veramente una platea sconfinata. Allora, i tre sono Candela, famosissima, sì. Eleonora Carisi, famosissima, e il terzo, che è il maschietto, Paolo Stella, che abbiamo al telefono con noi. Ciao, ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Paolo, però tu, adesso io non posso diventare influencer come te, non posso seguire la tua strada. Tu hai fatto... No, allora, poi tu... Perché tu hai una bio decisamente singolare. Allora, studiavi architettura, poi sì. Hai fatto Amici, poi hai fatto sì. L'attore, e sì. Da lì, com'è successo che sei diventato un influencer? È successo nell'ultimo periodo della mia vita in cui facevo l'attore, ma che tornerò a fare, scuppone del pomeriggio. Oh, bello! E avevo fatto praticamente questo film con Dario Argento, che era in inglese, si chiamava La Terza Madre, uh-huh. Ed essendo in inglese è stato distribuito in America. Quindi io sono uscito un po' dalle scene italiane, io facevo varie fiction in quel periodo, e sono andato in America, ho fatto questi due film horror, che qua per fortuna e grazie a Dio non sono mai usciti. Adesso li andiamo a cercare sicuramente. Mamma mia. E niente, poi sono tornato, ho avuto un momento di pausa mio e una concatenazione di fattori diversi, quindi nasceva Instagram, io sono sempre stato appassionato di fotografie, quindi ho cominciato a usarlo in maniera un po' maniacale, poi scrivevo, mi piace molto scrivere, quindi un giornale di moda che Elle mi ha chiesto di avere una rubrica, ho questa rubrica su Elle.it, dopodiché la moda pian piano ha cominciato a chiamarmi e poi c'è stato una cosa un po' particolare, nel senso che ho fatto un film piccolissimo, autoprodotto da noi quattro attori, che hanno visto in quattro persone, fra cui mia madre, mio fratello, mio padre, e un PR, che era il PR di Louis Vuitton, che mi invita alla sfilata. Louis Vuitton è diciamo un po' una delle sfilate più importanti al mondo. E infatti mi invita, io mi ritrovo in prima fila fra i Black Eyed Peas e Bradley Cooper, con e a quel tutti punto i giornalisti tutti a dire, esatto, e quel bel ragazzo lì chi sarà? È? Non so se c'era anche la parola Belle, ma se ne sono tutti chiesto chi era. Sì. E da lì, in realtà, essere in prima fila, scrivevo su un giornale di moda, è iniziato Instagram, tutti gli altri brand mi hanno invitato alle sfilate. Ma... E così è cominciata questa fortuita carriera alternativa. Ecco, quindi dal tuo racconto emerge già una cosa. Intanto un influencer deve fare tante cose, non una sola cosa. Cioè deve scrivere, deve pensare alle foto, deve andare agli eventi. Cioè quindi sì. Deve mettere assieme più strumenti di comunicazione e più tipi di creatività. Assolutamente, guarda, c'è un grande misunderstanding su questo, che non essendo mai stato prima di oggi un lavoro definito, tutti non hanno capito bene come funziona. Il fatto cioè, è di che... solito si dice, allora l'influencer è quello che si che fa invitare dappertutto e va a scrocco. Brava, facendosi le esatto. foto facendosi la foto dell'outfit, cose che io non faccio neanche sotto tortura. Hashtag ma OOTD, outfit of the day, mai fatto, puoi controllare se c'è un quel tipo di hashtag, bravissima, però molto sul pezzo. Ma tornato da grande voglio fare l'influencer, le so bravissima. Tutte io. No, secondo me quella è stata una prima fase iniziale che aveva anche senso. Poi in realtà c'è stata un'evoluzione. Quello che giustamente suggerivi tu è proprio un bisogno di contenuti e quindi una creatività per in qualche modo per esprimerli. Paolo, ti posso fare una domanda indiscreta? Visto che tu sei diventato anche imprenditore, perché adesso hai una società che si chiama Grumble che si occupa proprio di contenuti via web. Ma io posso diventare una grande influencer con le mie forze? Oppure c'è bisogno una società, un'azienda, un manager, divisione qualcuno che mi aiuti per la costruzione? Beh, innanzitutto bisogna avere gli strumenti per farlo, cioè le foto devono essere sempre molto professionali, ormai il livello è altissimo. Però io penso che la cosa fondamentale sia il fatto di ricercare la verità che ognuno di noi rappresenta, cioè ognuno di noi ha un talento, ha una verità e ha qualcosa da dire. Se tu individui quello, poi la gente ti riconosce, perché la gente la verità questa. La riconosce. Bello. E nel momento in cui c'è quel riconoscimento, tu funzioni. Allora, io voglio concludere con le tre tagline dei tre protagonisti. Sono di influencers a prendere nota. Allora, quella di Paolo Stella mi piace moltissimo. Se puoi sognarlo, puoi farlo fare. Bellissimo. Sì, ma fra l'altro mi hanno chiesto in 5 minuti mentre stavo prendendo un aereo. Ti è venuta bene? Ti è venuta ore. Benissimo. Proprio così. Allora, Eleonora Carisi, mai una gioia, è anche questo. Però ragazzi, scusate, ma Candela non la batte nessuno. Siamo al top. E se ti capita di cadere, tu fai finta di essere un Nokia 3330. E direi che... questa... Sono due geni, queste ragazze sono due geni incompresi. Infatti io spero che col programma venga fuori anche una verità che va al di là della foto patinata con l'abito di haute couture. Paolo, sono molto contenta di Influencer. Ricordo che è iniziato il 6 maggio su Real Time, quindi lo trovate anche sul... Sì, poi ci sono tutti i social dedicati, canale 31, Real Time. Grazie Paolo. Ciao. Stella. Paolo, sei bravissimo. Ciao. Grazie mille a tutti voi, grazie davvero. Grazie Paolo. Daniele. E a questo punto abbiamo imparato un sacco Mamma di cose mia, sulla rete. Io devo ancora diventare vlogger prima di diventare influencer. Un però... po' stanca perché ho preso un sacco di appunti. Cioè, guarda davvero che lo sei, quello che tu scrivi ogni tanto sui social viene letto dalle persone e dicono Marta Cagnola è il mio influencer di riferimento alcune cose. Sai quando non lo mi sei dicono... sul calcio, ecco. Non ancora, non ma ancora. Mi posso, posso cimentare. Daniele, che bella è stata questa puntata. Molto, e quindi ringraziamo Cristian Goldoni che come sempre ci ha aiutato a metterla insieme e a sopportarci Mitico. E supportarci Valeria Bernardi in regia. Noi ci troviamo quando? Sabato prossimo? Forse. Rifacciamo? Ciao. È pronto? Io mangio l'insalata. Fa la dieta, vuole fare la modella.